sono legato a questo suono. Re della mia camera, ciò che lo scende il trono. Uno come tanti nella massa, un volto come tanti giù in piazza e in piazza. La mano che si tende si dilegua a seconda della circostanza. Produco sempre solo nell'azzurra stanza. Sì che lo so, mi chiedessi che lo sai. Uno su 6 miliardi e qua nessuno for life. Sì che lo so, mi chiedessi che lo sai. Uno su 6 miliardi e qua nessuno for life. Sono me stesso, in ogni mio concetto, in ogni mio pensiero, sempre fiero, anche se sono sul sentiero. Difendo, preservo, conservo all'interno. Ci credo da una vita e le rispetto, ero un eterno. Governo la mia nave, la tempesta perfetta. Come scende vivo uomo con la tua testa. Resto come sono, sono come resto. Lo scrivo in ogni testo, io sempre più perplesso. Detesto il compromesso, mille tentazioni ma resisto. Cosa mi tiene a casa quando tutti vanno in disco? Deca, no punk, no metal. Solo fini Spike Lee nella cineteca. All'ultimo writer per questa massa di maligoldi, Owners.